Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. La notizia ha fatto subito il giro del mondo, è una di quelle notizie che raccontano non solo la storia di un prodotto ma anche i tempi che lo attraversano. Parliamo della svolta annunciata da Playboy. Da marzo 2016 non pubblicherà più nudi integrali. Nell'era del porno di massa, questa la riflessione che vogliamo proporvi: la vera trasgressione non passa più dalle conigliette. E poi vi raccontiamo la nuova frontiera della sharing economy, l'economia della condivisione, la consegna dei pacchi con l'arrivo dei corrieri collaborativi. E se a metterci lo zampino è anche un colosso come Amazon, è facile intuirne uno sviluppo esplosivo. E poi lo sapete che c'è una nuova economia domestica, è la versione 2.0 per così dire, ha a che fare con le app e gli oggetti intelligenti all'insegna della parità di genere, della sensibilità green e della filosofia antispreco. Essere la coniglietta del mese è l'onore più grande che esista. Sei lì e dici, sono nuda? Al centro esatto di una rivista. Addio, da marzo 2016 Playboy non pubblicherà più nudi integrali. Immagini provocanti ma niente nudi, ha annunciato l'amministratore delegato Scott Flanders. Oggi con un click puoi trovare tutto il sesso che vuoi, ha spiegato al New York Times, imputando alla diffusione della pornografia su internet il declino della rivista. Lanciato nel 1953 con le immagini strepitose di Marilyn Monroe dagli oltre 5 milioni e mezzo di copie del 1975, Playboy infatti è sceso alle 800.000 di oggi. Nell'era del porno di massa, insomma, Playboy diventa casto e forse sta proprio qui la rivoluzione, ora come allora. Ieri la trasgressione passava dal nudo esibito, oggi non è più così. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'edizione italiana, Vincenzo Petraglia. Playboy insomma ha sempre un po' rotto gli schemi fin da quando è nato e continua secondo me a romperli, come dire, mentre tutti mostrano noi probabilmente rivestiamo un po', ma questo perché dall'era di internet ha comunque insomma cambiato molto anche il modo, l'approccio e anche il modo di guardare la bellezza femminile o comunque il porno che si trova insomma su internet, ha forse anche banalizzato un po' la nudità, quindi noi accettiamo, raccogliamo questo cambiamento che appunto dalla casa madre, quindi dagli Stati Uniti, è stato lanciato e lo rilanciamo a nostra volta sulla nostra edizione italiana. Non sarà bandita del tutto la nudità, sarà presente, ma potrà esserci o non esserci, sarà la donna a scegliere. Quindi non sarà più la condizione sine qua non come magari è stata finora, quindi saranno loro a scegliere. Nei primi numeri di questo vostro ritorno in edicola c'è stata una svolta in qualche modo culturale, quasi intellettuale. Ecco, mi vengono in mente un editoriale di Gherardo Colombo piuttosto che un ritratto di Maria Elena Boschi. Per voi che cosa significa questo nuovo corso? In Italia forse ecco un nuovo corso, però in qualche modo è un recuperare l'originaria tradizione poi di Playboy, il cui fascino secondo me, a mio modesto parere, insomma, è proprio questa doppia anima, quindi da una parte la celebrazione della donna, della bellezza femminile in tutte le sue forme, in tutte le sue diversità, e dall'altra parte anche i contenuti, proprio perché anche il lettore di Playboy si cerca ovviamente i servizi fotografici che l'hanno reso, come dire, conosciutissimo nel mondo, però cerca anche contenuti, articoli che magari non trova o interviste che non trova in altri giornali. Nell'era del porno di massa, lo hai ricordato anche tu poco fa, da dove passa la trasgressione oggi? Nel momento in cui anche ci siamo messi a lavoro su questo progetto, insomma, editoriale così importante, così ricco di storia, di tradizione, abbiamo notato anche una certa nostalgia, insomma, in giro, di quell'erotismo gioioso che forse oggi manca un po', basta un click e si trova veramente ogni nudo possibile immaginabile, ogni immagine o filmati porno. Penso per esempio anche al film erotico degli anni 70 che ormai non c'è più. Secondo me oggi si è perso un po' questo senso del vedo non vedo, quindi anche del fantasticare, e questo ha fatto perdere secondo me anche un po' la magia forse dell'erotismo, del sesso, nel senso più ampio, più bello del termine. Una riflessione che vale anche per l'uso dell'immagine femminile in pubblicità, in comunicazione, per l'immaginario femminile di riferimento, trovi? Sì, indubbiamente può valere anche, insomma, in questo campo sicuramente. Un colpo, tu sei capace di volare nel cielo, eh? Mi è stato rilasciato questo biglietto. Ma è la firma di quella persona. Il ciuccio è stato ricevuto, la ringrazio. È il regalo della zietta! Hai fatto tardi, mia sorella minore ci aveva telefonato e ti aspettavamo. Mi faccia una firma, la prego. La ringrazio infinitamente. È la consegna dei pacchi, la nuova frontiera della sharing economy, l'economia della condivisione. Dopo turismo, vedi Airbnb, e mobilità, vedi Uber, è vicina alla rivoluzione anche per questo settore, la logistica. Lo testimonia il nuovo servizio lanciato da Amazon, Amazon Flex, che consente a chiunque di guadagnare diventando fattorini, andando cioè a ritirare la merce dai vari depositi per poi consegnarla ai clienti. Un servizio presente al momento solo negli Stati Uniti, che è già stato definito l'Uber dei pacchi. Al momento il requisito richiesto è quello di avere un'auto, ma l'azienda non ha escluso per il futuro la possibilità di effettuare consegne anche in bicicletta o addirittura a piedi, pensate, in posti come Manhattan. Il tutto in attesa della consegna con i droni, che come sappiamo il colosso sta già sperimentando. In Italia comunque il corriere collaborativo esiste già, si chiama Youpony, è un'applicazione tutta italiana, ce la siamo fatta raccontare dal suo ideatore Rodolfo Falletti. È una piattaforma che permette sia ai privati che alle aziende di spedire immediatamente a dei costi più bassi, con un sistema molto più sostenibile, e permette sia ai corrieri, diciamo così, ufficiali, che ai freelance, quindi ai corrieri privati che si vogliono offrire mentre stanno viaggiando per trasportare qualcosa, permette appunto di incontrarsi, quindi di offrire un servizio che oggi magari è limitato soltanto alle ore di business, diciamo dalle 9 alle 5, invece di averlo 24 ore su 24 su qualunque tratta. Quindi anche corrieri occasionali, per così dire? Assolutamente, assolutamente. Possiamo fare un caso concreto, magari nel weekend uno va in montagna, si scorda i guanti da sci a casa, dovrebbe comprarseli nuovi, invece c'è tantissima gente che magari si sposta da Milano a Bormio il sabato e glieli può tranquillamente portare, basta mettere un annuncio su Youpony e sicuramente si troverà qualcuno che per 5-10 euro glieli porta. Facciamo anche un altro esempio molto comune: la spedizione in città generalmente è abbastanza ben servita dai pony attuali, che comunque possono rientrare dentro la nostra piattaforma, ma appena si fa una consegna fuori città, mettiamo Milano Crema, già ci si trova a dover affrontare dei costi molto elevati e la consegna veloce è praticamente impossibile, mentre invece con il sistema di Youpony è possibile ottenere un costo molto più basso e ad avere una consegna molto più immediata, perché comunque la Milano Crema è una rotta abbastanza trafficata. Allo stesso modo, se pensiamo a spedizioni internazionali di piccoli oggetti o medi oggetti, un Milano Londra è possibile far arrivare magari un documento a Londra in 2 o 3 ore, mentre con un corriere ordinario ci costerebbe almeno 40 euro e ci metterebbe almeno 24 ore, mentre chiunque lo può trasportare per 10 o 20 euro, basta portarglielo a Malpensa. Immagino, come tutte le piattaforme della sharing economy, ci sia un sistema di feedback, perché la fiducia è l'elemento fondamentale, ma una fiducia basata su qualcosa di concreto. È una fiducia, diciamo così, possiamo dire strutturata? Tutti si chiedono: ma devo dare qualcosa ad uno sconosciuto? In realtà l'utente Youpony non è assolutamente uno sconosciuto, anzi questa è una delle forti innovazioni della nostra piattaforma, perché l'utente è assolutamente identificato e, diciamo così, sia chi spedisce che chi consegna si deve comportare bene, perché comunque c'è un sistema di feedback e quindi di controllo cosiddetto social. Si danno delle stellette da 1 a 5 come sulle altre piattaforme, e in più noi abbiamo aggiunto un sistema di sicurezza basato sia sui selfie. Il pony fa una foto di sé mentre consegna l'oggetto al destinatario e la invia allo speditore in modo da chiudere, diciamo così, il cerchio della consegna, sia sul codice QR che va ad integrarsi al selfie, quindi costruiamo tutta una catena di sicurezza per permettere una delivery veloce e assolutamente affidabile. Restate con noi perché nella seconda parte vi raccontiamo la storia di un'altra startup tutta italiana, la filosofia è simile, parliamo però di food delivery, cibo a domicilio, non solo nelle grandi città, non solo pizza, sushi e kebab, tra pochissimo. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Essere e Avere. Pronto? Sì, è vero, l'ascensore è fuori servizio, si serva delle scale. Sì che si può fare. La pizza esiste dagli albori del XVI secolo, mentre il primo ascensore è stato installato nel 1852, il che vuol dire che per oltre 300 anni la gente ha portato le pizze su e giù per le scale e venga e faccia parte della tradizione. Chiamo Penny mentre il ragazzo ci sputa sulla cena. In studio con Essere Avere continuiamo a parlare di consegne a domicilio in chiave sharing, parlando di un'altra startup tutta italiana che si è concentrata sul food delivery, proponendosi di colmare il vuoto nell'offerta per quanto riguarda il prodotto, non solo pizza, sushi e kebab, per intenderci il cibo che siamo abituati a farci consegnare a casa, ma anche per quanto riguarda le zone coperte al di fuori delle grandi città. Si chiama Food Racers, è in partenza in 14 città italiane, è già stata soprannominata anche in questo caso l'Uber del food delivery. L'ideatore Andrea Carturan. Food Racer funziona proprio come sito, diciamo, di ricerca di cibo a domicilio, nel senso che noi abbiamo creato questo portale dentro al quale i ristoranti di ogni città, dico i ristoranti perché possono essere tutti, quindi non solo quelli che normalmente sono già attrezzati per fare le consegne, ma soprattutto quelli che non hanno mai voluto offrire il servizio di consegna a domicilio. Quello che noi cerchiamo di fare è di dare un sistema che metta in collegamento il ristorante, okay, che è in grado di offrire piatti da asporto, con tutta una rete di persone locali, sono dei trasportatori su ogni città, i quali sono affiliati anche questi al sito. Il cittadino di ogni capoluogo sul quale lavoriamo cosa fa? Entra all'interno del sito internet, seleziona il ristorante dal quale vuole ricevere la merce e dopo ci sarà proprio un'applicazione che è installata sui telefoni di tutti i trasportatori che dà una notifica, diciamo, di questa avvenuta richiesta di consegna e la persona che è la prima, diciamo, a rispondere a questa richiesta è quella che poi si occuperà della gestione dell'ordine. Quindi fisicamente contatterà il ristorante, si occuperà di ordinare quello che è stato ordinato dal cliente, si occupa di andarlo a ritirare e di andare a consegnare poi a casa del cittadino. Ecco, abbastanza semplice come sistema. Ecco. Quali sono i costi? Chi fissa il prezzo? I costi in realtà sono gli stessi del ristorante, nel senso che a differenza di altre startup che stanno partendo adesso sempre con questo discorso di consegna a domicilio a livello di sharing economy, diciamo, stanno impostando un po' il sistema aumentando i prezzi del ristorante perché poi quello è il loro guadagno. Noi quello che invece cerchiamo di fare è di convenzionare, nel senso noi abbiamo una convenzione col ristorante per cui obblighiamo ogni ristorante a mantenere lo stesso prezzo che ha all'interno del ristorante, per cui il cliente non paga niente di più se non un contributo di consegna che è legato un po' alla distanza dalla zona di consegna al ristorante. Cioè il minimo di consegna sono 3,90 euro e si arriva fino a 4,90 in tutto, ecco, in base a quanto distante è. È un settore molto promettente. Sì, diciamo che il settore del food delivery in Italia è ancora abbastanza vergine, diciamo che le città metropolitane sono quelle che sono abituate già da anni ad avere questi tipi di servizi. Quello che noi abbiamo deciso di fare è di andare a servire la provincia, quindi tutte quelle realtà medio-piccole italiane su cui questi servizi ancora non sono ben sviluppati. Ecco. Quello che abbiamo visto è che la ristorazione di una fascia medio alta, ok, quindi il ristorante di qualità che è riconosciuto come buono dai cittadini, è quella ristorazione che normalmente non si è mai interessata a fare le consegne. Quello che abbiamo proprio cercato di fare è stato di portare questi ristoranti, che sono ovviamente quelli più interessanti per i cittadini, ad entrare in questo nuovo mondo del food delivery. Focus sui trend. che l'economia domestica diventa 2.0, mondo digitale e nuove sensibilità green l'hanno trasformata in un'attività che semplifica la vita. È un mondo fatto di nuovi oggetti di consumo e nuovi servizi nel quale molti brand si stanno posizionando. Ne parliamo con Linda Gobbi di Future Concept Lab. Ciao Linda, bentrovata. Ciao Maria Luisa, ben ritrovati a tutti. Allora, partiamo dallo scenario di questa nuova economia domestica. Con l'ondata dei nuovi sistemi digitali e di soluzioni intelligenti torna davvero il concetto di economia domestica, da tempo dimenticato in Italia. Se ricordi, si insegnava alle medie fino al 77 e si insegnava economia domestica alle femmine, mentre i maschi alle medie avevano la lezione di applicazioni tecniche. Ecco, se in Italia è dimenticata, non è dimenticata ad esempio in Finlandia, nel nord Europa, dove si insegna ancora esattamente economia domestica, 3 ore alla settimana in aule dove maschi e femmine sono insieme. Ricordiamoci però che economia è un termine greco, oikos, che significa esattamente casa, e per economia si intendeva l'amministrazione delle cose della famiglia. Poi economia è stato trasferito alla macroeconomia, all'amministrazione degli stati, paesi, delle imprese e nazioni, ma economia si intende esattamente economia domestica. Due bellissimi messaggi, Linda, innanzitutto per questa rivoluzione anche nell'economia domestica: parità di genere, innanzitutto sottolineiamolo, e poi antispreco di risorse di tempo, quindi assolutamente due messaggi in linea con le riflessioni più avanzate. Nuovi attrezzi, nuovi oggetti, dicevamo, iniziamo a fare qualche esempio. Sì, guarda Maria Luisa, interi settori merceologici grazie ai dispositivi digitali stanno proponendo nuove soluzioni che accompagnano le passioni e le buone pratiche che ricordavi. Un primo esempio: Drop è una bilancia intelligente di un'azienda fondata a Dublino solo nel 2012 che sta avendo grande successo. La bilancia Drop ti guida e ti insegna a realizzare una ricetta in cucina. Che cosa fa? Se ti sbagli nel versare troppa farina, troppo zucchero, non butti via niente, ma l'app ti guida e riproporziona l'intera ricetta sulla base di quello che hai compiuto. E non solo, se ad esempio non hai un ingrediente in casa previsto dalla ricetta, ma ne hai un altro, non si butta via niente, l'app ti guida a preparare quella ricetta con quello che hai in casa. Vogliamo fare un altro esempio? L'innovazione arriva anche nelle attività più di routine, quelle un po' più noiose, come riporre negli armadi gli oggetti più diversi. Parliamo di Neutral iBox, è una scatola intelligente, ha un dispositivo, un'etichetta esterna che, dopo aver fotografato il contenuto della scatola, lo archivia, e quando dovrai guardare l'armadio e tutte le scatole riproposte, la app appoggiata sulla tag, sull'etichetta, ti rimanda la foto degli oggetti che sono dentro. Maglioni e guanti le troverai senza fatica e spreco di tempo. Beh, due oggetti utilissimi che semplificano davvero la vita, lo avevamo anticipato, li voglio subito. Abbiamo parlato, Linda, anche di nuove sensibilità, nuove esigenze dei consumatori. La passione per il giardinaggio è una di queste. So che hai un bel esempio anche qui. Sì, non solo la passione per il giardinaggio, ma per gli orti in casa. L'esempio è Edin, è un sistema per un giardino, un orto intelligente, inventato da un agronomo di San Francisco. Si tratta di un sensore che viene messo nel terreno e una valvola dell'acqua per innaffiare. Che cosa fa il sensore? Legge tutti i dati, concimazione, umidità, la luce esterna, le condizioni meteorologiche, e automaticamente innaffia le piante secondo necessità. Naturalmente in questo caso il risparmio dell'acqua è l'indicazione più importante, ma non solo: archivia tutti i dati, li incrocia tra condizione del suolo e quello che decidi di coltivare, pomodori, melanzane e zucchine, e anticipa quelle coltivazioni che daranno migliori risultati proprio nel tuo orto, nel tuo giardino. È un contesto, uno scenario nel quale molti brand si posizionano. Se ti chiedessi di citarmi chi sta facendo bene, chi fa scuola in un certo senso, chi mi diresti? Guarda, io mi sentirei di segnalare ancora IKEA con una bella campagna web che è in programmazione in questi ultimi mesi. IKEA ci ha abituato da tempo a suggerire in modo anche ironico alla cifra comunicativa di IKEA nuovi comportamenti, nuove abitudini. In questo caso lo fa anche indirizzando una nuova economia domestica. La campagna ha il titolo hashtag gustati la vita e i titoli di alcuni firmati sono ad esempio: oggi è il giorno giusto per separare la raccolta differenziata, oggi è il giorno giusto per organizzare la dispensa, oggi è il giorno giusto per cucinare insieme. Con IKEA io credo vi sia l'esempio emblematico, tante altre ci sono, ma questo è emblematico di come soluzioni intelligenti per la casa possano far crescere nuovi adulti, come dicevamo prima, con una nuova idea di condivisione e di flessibilità su chi fa cosa. Tutte le immagini, i link sulla nostra pagina Facebook. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, Maria Luisa. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del sociologo Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Grazie Maria Luisa, buonasera a tutti gli ascoltatori. Il tema di oggi? Il tema di oggi è grande cultura nella grande provincia italiana, anche per sconfessare l'idea che le grandi produzioni culturali, le mostre, gli eventi possano essere in Italia realizzate solo nelle grandi città. È chiaro che Milano in particolare in questi mesi ha rappresentato un laboratorio straordinario anche proprio di visione per il futuro, ma esistono piccole, addirittura piccoli centri, non solo le medie città italiane, che stanno proponendo, devo dire, eventi, iniziative di grandissima qualità. Una riscoperta del territorio, questo la provincia vuole dire, no? Sì, è una scoperta del territorio al di là della saga paesana, lasciami dire, nel senso che faccio degli esempi concreti. Ci sono in questi giorni, ad esempio, alcune mostre davvero di grande qualità in luoghi che pochi conoscono, non so, Traversetto, in provincia di Parma, una mostra meravigliosa su Balla, in un luogo meraviglioso che è questa villa della Fondazione Magnani. Lo consiglio, ma perché davvero non è un piccolo evento per un territorio, diciamo, limitato, ma non si fanno file, è di straordinaria qualità e sono anche quelle mostre magari più a misura d'uomo, per cui le puoi visitare con grande tranquillità e davvero impari tanto. Un altro esempio è legato a un altro grande artista italiano che è De Chirico, a Lecco, no? A Lecco, una mostra che parte da una lettera che De Chirico scrive per raccontare questa sua esperienza di una visita a Lecco per mangiare le lumache, ed è stata costruita da chi lo ha curato, da Giulio Ceppi, questa piccola esperienza di grandissima qualità che ti apre il mondo di De Chirico. Ecco, credo che queste cose oggi debbano essere segnalate e farci capire che l'Italia è un paese di grandi province. Ricordiamo anche che molte delle energie creative, intellettuali, che poi, come dire, si stabiliscono nelle grandi città, arrivano dalla provincia. Mi viene in mente un parallelismo, Francesco, con le province del mondo, con questo periodo storico di grandi migrazioni, in cui se il nostro messaggio è un messaggio di inclusione, ci apriamo alle energie che arrivano dalle periferie del mondo. È proprio così, dobbiamo sempre considerare con attenzione poi la qualità delle persone, no? Perché è vero, le province del mondo, le province in Italia, dove crescono, nascono persone che hanno talenti, che hanno energie, e quindi dobbiamo capire che accoglierli non è solo un gesto, diciamo, buonista, ma è un'opportunità, perché il punto di vista diverso di chi ha attraversato magari il mondo per arrivare da noi ha sempre quel seme di futuro che noi dobbiamo imparare a raccogliere. Grazie Francesco, alla prossima. Grazie a te e a tutti. E allora Allora, grazie anche in regia Carmelo Lauricella. Essere Vere finisce qui. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.